C'è sempre il momento per tornare, c'è sempre il momento per partire, c'è sempre il momento per andare da qualche parte, c'è sempre il momento per ricominciare, anche se a pezzi e bocconi, ma ci stiamo organizzando. Volevo semplicemente darvi il benvenuto in questa mattinata. Io sono Simone Pizzi e questa è ovviamente il Grande Reset. Suona la sveglia, è venerdì, l'onda che cambia la rotta. Venerdì mattina si accende una nuova prospettiva con Simone Pizzi. Il pensiero si accende, il grande reset, la sfida che attende. Microfono aperto, un confronto che crea, verso un domani nuovo, plasmato da un'idea. Uniamo le forze, è tempo di cambiare, per costruire un mondo nuovo da immaginare. Ascolto profondo, confronto che apre via, con mente lucida e cuore pieno d'energia. Sulle onde di Runtime, la voce che ci guida, Simone Pizzi accende la nuova sfida. Non solo parole, ma un seme di coscienza, per un risveglio, una nuova partenza. Uniamo le forze, è tempo di cambiare, per costruire un mondo nuovo da immaginare. Ascolto profondo, confronto che apre via, con mente lucida, cuore pieno d'energia. E che sia chiaro, solo sul Runtime, questa bellissima musica veramente autocelebrativa, che me la canto e me la sono, incredibile, perché poi alla fine c'è sempre un po' di quel pizzico di insomma esuberante egocentrismo, ecco, chiamiamolo così per dargli un nome un po' civile da un certo punto di vista, anche se la mia analista di tantissimi anni fa diceva che poteva essere anche diciamo insomma una visione di autodivinazione, come si dice. Adesso non mi ricordo perché questa mattina non ho le parole, ma non fa niente. Benvenuti a tutti quanti, ragazzi. Questo, sto sperimentando la mia nuova jingle machine, che dice: ah, hai comprato un altro genere? No, me la so programmata. Ma questa mattina non parleremo di programmazione, intelligenze artificiali e via dicendo, ma di tante tante piccole cose. Tante, insomma, no, però qualche cosina, insomma, la raccontiamo. E stavo riflettendo e volevo subito partire a bomba un po' così sulla notizia che ho letto dello scontro praticamente tra il governo francese e il mondo della pornografia online, che è, diciamo, una situazione abbastanza interessante, perché noi abbiamo capito, diciamo, che quando le istituzioni, in particolare le istituzioni europee, perché quelle americane se ne vedono bene, come dice qualcuno, fanno delle rilevanze, insomma, diciamo che diciamo pongono delle problematiche pure dal punto di vista legale, etico, morale, e insomma anche per la nostra visione, no, del mondo e delle cose, e nei confronti di certi siti americani, i siti americani subito sbragano la cosa, no? È un po' come è successo, non so se ve lo ricordate, con ChatGPT di Anthropic, quando di OpenAI, che quando il garante italiano aveva fatto appunto dei rilievi su aveva posto delle domande, si era posto dei dubbi sulle questioni di legittimità dei dati o comunque sulla privacy delle informazioni, della tutela anche delle informazioni e dei dati personali, giustamente OpenAI, invece di interagire, diciamo, porre o insomma di fronte all'attenzione la questione, magari farne anche una discussione, perché no, ha preso e ha chiuso praticamente l'accesso al ChatGPT in Italia per X periodo di tempo, e questo creando anche tantissimo malumore, perché la gente dice: ah, noi siamo un paese sottosviluppato perché non possiamo sentire, non possiamo usare ChatGPT, e dire: ChatGPT, ma tu sei femmina? Capito? Perché insomma, questo poi è il nostro livello di utilizzo, anche se poi, visto che gente fa degli usi incredibili dell'intelligenza artificiale, quando dico incredibili dico una cosa becera. E la stessa cosa, insomma, è successa con i tre siti fondamentali che ho scoperto, ovviamente leggendo questa notizia, che fanno parte dello stesso gruppo, quindi Pornhub, YouPorn e RedTube, mi pare. RedTube non sapevo neanche dell'esistenza, diciamo così. E praticamente hanno chiuso, diciamo, l'accesso al pubblico francese in generale, proprio hanno fatto una cosa in generale, quando ovviamente il governo francese si è posto la questione della verifica dell'accesso di chi entra all'interno di questi siti qua, che è una cosa che ci siamo sempre domandati tutti. Io non so, insomma, quando eravamo magari pischelli il problema non ce lo ponevamo, no? Però poi da più grandi magari ce lo siamo anche posto, no? E cioè, nel senso, è un po' facile, no, andare su un sito e dire: ce l'hai 18 anni? Sì, sì, c'ho 18 anni. E entri tranquillamente con una certa disinvoltura, e usufruendo ovviamente di tutti quelli che sono i contenuti. E giustamente il governo francese si è posto proprio questa questione, cioè di obbligare questi siti a fare degli accertamenti su chi è che ovviamente entra all'interno del sito, al netto ovviamente della tutela della privacy, poi chiaramente. Però è chiaro che, cioè, nel senso, è un po' un terreno abbastanza grigio, no, da un certo punto di vista, perché da una parte c'è il fatto che tu devi tutelare e il fatto che determinati soggetti al di sotto di certe età, secondo la tua legge, non devono consultare quel tipo di materiale, e tu devi fare in modo che sia così, e quindi non può arrivare il sito da un'altra parte del mondo e dice: ah, c'hai 18 anni? Sì, ok, bello, bello, accedi a tutto. Dall'altra, ovviamente, c'è anche un fatto che fare una verifica, diciamo, sottopone comunque l'utente, che di solito chi fa uso della pornografia, diciamo, cerca di mantenere quanto più la privacy, insomma, no? È come quando tu andavi insomma, alla videoteca, non so se ve lo ricordate, c'era la videoteca con lo spazio dove c'erano le cassette porno, e praticamente tu che facevi? Vedevi queste persone che guardavano, no? Facevano, poi a un certo punto ti giravi un attimo e non c'erano più, perché approfittavano del momento di distrazione per infilarsi dietro la tenda, che insomma era la tenda, cioè era la tenda che separava ovviamente la parte porno dalla parte, e poi tu continuavi a cercare il tuo film, cercavi Titanic, roba, cioè, ti rigiravi, era riapparso con le schedine in mano, no? Vi ricordate, c'erano i numeretti, no? Che c'erano i numeretti che tu prendevi da sotto la cassetta e la portavi al tizio, poi sai, nelle videoteche da una volta c'erano numeretti più puliti e c'erano dei numeretti più appiccicosi, non so se è mai capitato questa cosa. Comunque, vabbè, torniamo un attimo a bomba su questa questione. Ecco, diciamo che poi uno ci tiene alla propria privacy, soprattutto se usufruisce di contenuti che vengono comunque comunemente considerati un po', insomma, zuzzerelloni, no? Però è giusto da un certo punto di vista, e questo è un po', deve aprire un po' un dibattito, perché io questo problema me lo so sempre posto, cioè, ma in generale su tutte quelle realtà dove tu entri e hai praticamente uno sbarramento, cioè una regola d'ingresso, ecco, diciamo così, perché è come se io vado dentro un pub la notte, c'ho 14 anni, insomma, giustamente magari il tizio se lo pone il problema: ma tu te la vuoi bere il whisky? No, per dirti, no? Oppure quando andavi dal tabaccaio, a parte c'erano dei tabaccai che se ne fregavano, però in generale quando tu andavi dal tabaccaio non te la vendevano le sigarette se eri minorenne, anche se c'era quell'abitudine quando ero ragazzino io, che magari mamma e papà te mandavano giù a comprare le sigarette, ma era un altro mondo, si ragionava in altri criteri negli anni 70 e 80, insomma, no? Però ecco, diciamo che poi a un certo punto si sono messe delle regole su tutti quelli che sono le barriere d'ingresso nelle varie situazioni, quindi possono essere le sigarette col codice fiscale anche quando andavi dalla macchinetta, non so se ve lo ricordate, questo è un ricordo che mi porto dietro perché ho smesso di fumare nel 2012 e da lì non ho più toccato niente, diciamo così, però mi ricordo che si faceva così e quindi quando tu andavi a comprare sigarette di notte c'era sempre i pischelli, che ma dai la cosa, che ma dai... E lì poi deponevano di fronte a un ulteriore dubbio morale perché diceva, beh, insomma, un po' non voglio fare lo stronzo, un po' però no, ne devi pigliare le sigarette. Quindi io, nel dubbio tra la questione morale e fa lo stronzo, io facevo lo stronzo perché io sono fatto così. E ce la devi fare. Poi con i ragazzini in particolare. Però, diciamo, questo è comunque... bentornata Michela. Ciao Michela. Salve. Salve a tutti, salve a tutti. E niente, stavamo dicendo appunto... ci sono appunto dove poi la barriera d'ingresso è fisica, ovviamente il problema, diciamo, da un certo punto di vista non si pone. Quando invece questa barriera d'accesso diventa online, è chiaro che ci devono essere delle regole, perché poi ci sono barriere d'ingresso più o meno gravi, no? Mo al di là del fatto che poi dopo, quando sentendo la notizia, poi ovviamente si è fatta tutta una sorta di disquisizione anche pedagogico sessuale sul fatto che i ragazzini accedono facilmente a questi contenuti e che poi questi contenuti diventano una sorta di standard concettuale rispetto a quello che è la loro percezione del rapporto fra due persone che possono essere dello stesso sesso o meno o comunque del... insomma, eterosessuale, diciamo così. Il problema è ovviamente appunto, al di là di questa cosa che è giusta, ci si può fare tutti gli approfondimenti, secondo me è proprio tecnico e anche etico, nel senso che al di là di quello che si può pensare della pornografia, che ha tante sfaccettature, che ha tutta una parte, una grandissima parte che è discutibile e c'è tanta beceranza, dall'altra magari ci sono anche intenzioni ideali, a volte anche ideologiche, no, dietro. Quindi c'è veramente oramai di tutto, non è più come il film porno che ogni tanto ti capitava di vedere negli anni 80 sulla cassetta che ti portava l'amico di scuola, no? Cioè qui si tratta ovviamente di centinaia di migliaia, forse anche di milioni di contenuti prodotti alla bene e meglio in condizioni particolari, dove ovviamente c'è un certo tipo di atteggiamento che a volte, spesso c'è questo tipo di atteggiamento che poi magari viene assimilato, diciamo, come comportamento normale nella dinamica di una coppia che vuole, cioè, nel senso, giustamente esprimere la propria sessualità anche da giovani, no? Perché comunque, cioè, molti hanno una barriera d'ingresso al sesso magari a 15-16 anni e altri più in là, altri forse anche prima, però insomma, diciamo che una cosa è esplorare poi comunque determinate cose con consapevolezza, con educazione, perché magari si è costruita una struttura anche scolastica che è in grado di spiegare senza che ci siano le pippe moralistiche del cazzo, e una cosa è che ovviamente i ragazzi imparano quello che è il rapporto in generale con col porno. Non che io sia contro il porno, perché alla fine tutti ci siamo cresciuti, no? Nel senso, tutti ci abbiamo avuto 14 anni, 15 anni, tutti abbiamo scoperto anche la cosa di trasgredire, no? Da un certo punto di vista, che poi forse era magari anche l'aspetto più divertente un po' della cosa. Dall'altra però ovviamente c'è questa questione, insomma, del preoccuparsi di una barriera d'ingresso dove non c'è una verifica. E quindi giustamente il governo francese, secondo me giustamente, ribadisco, se l'è posta la questione, e se l'è posta però giustamente questi tre siti importanti, quindi Pornhub, YouPorn e RedTube, che ribadisco non sapevo neanche che esistesse RedTube, cioè che cazzo di nome è RedTube, ma vabbè, almeno quell'altro c'ha la parola porn, insomma, sul nome, cioè nel senso capisci di che cosa stai a parlare, insomma RedTube potrebbe essere qualsiasi cosa, comunque quelle sono cazzate marketing loro che non ce ne frega niente. No, giustamente loro hanno reagito, giustamente dal loro punto di vista hanno reagito dicendo sì, allora noi chiudiamo l'accesso ai nostri siti a tutti, che è un po' come sparare il mucchio, cioè nel senso, non mi rompete il cazzo, io lo porto via la palla, ovviamente danneggiando tutti quegli utenti che alla fine non c'entrano un cazzo, che anche sti cazzi, poi tutto sommato, diciamoci la verità. Però insomma, secondo me bisognerebbe aprirlo un po' un dibattito. Voi che cosa ne pensate di questa cosa? Stai ascoltando Runtime Radio, sempre più live, sempre più radio. Vedder ci ha fatto sta canzone che praticamente i primi 3 secondi canta, poi diventa un pezzo strumentale sul quale noi ovviamente ci parliamo sopra, perché così andiamo avanti. Allora, intanto Walter ieri nelle orazioni della sera, intanto ne approfitto anche, bentornato Walter, è sempre comunque, ci fa sempre piacere che sei non solo tornato ma che comunque piano piano provi a ridare un ordine alla tua esistenza. E ha parlato del decreto sicurezza, quindi ne ha parlato bene, ha cercato di eviscerare un po' tutti quelli che sono le problematiche, insomma quello che ci regala, ecco, diciamo, questa ennesima perla della Meloni e di tutta quella sua compagnia. Dall'altra parte ovviamente c'è tutto da fare, tutta una serie di considerazioni che non sono ovviamente semplicemente strettamente legali tecniche, nel senso che sono delle leggi profondamente repressive da un certo punto di vista, che insomma, diciamo, riaccendono quella che poi era un po' l'immaginario collettivo, no? C'è la visione del fatto che qui stiamo parlando di persone che vengono da una tradizione politica, che è quella del fascismo, e che dopo 70 anni hanno trovato la forza, le risorse, la capacità riorganizzativa di riemergere, risorgere da un certo punto di vista e costruire diciamo un ambiente politico in generale, anche a livello internazionale, basato poi prevalentemente un po' sull'ignoranza e sul diciamo sul il menefreghismo, diciamo l'indifferenza, più che altro sull'indifferenza, perché una volta ovviamente per partecipare, per contestualizzare anche delle posizioni politiche, bisogna avere comunque una certa predisposizione, una certa cultura, no? Oggi c'è questo atteggiamento anticulturale, cioè nel senso che visto che le persone che non hanno un presupposto culturale si sentono giustificate dal fatto che c'è questa difesa quasi istituzionale alla distruzione di tutto ciò che è la cultura all'interno di questo paese, di tutti i paesi che ovviamente hanno intrapreso questo tipo di percorso, oggi si sentono contenti e giustificati, tipo ma voi parlavate con le parole difficili, invece vi perduce. Perché poi qual è il discorso di fondo che è sempre stato e che poi ne abbiamo già parlato tante altre volte? Il discorso è semplice: meglio avere un dio, un re, un papa o un duce al quale delegare qualsiasi tipo di responsabilità rispetto a quella che è l'ordine delle cose intorno a te, piuttosto che preoccuparti di partecipare a un contesto democratico e contribuire in qualche maniera, no? Quindi dare la tua opinione, dare le tue risorse, mettere a disposizione una parte di te per quello che è la società e la democrazia, che è un discorso che oramai abbiamo completamente accantonato, no? Cioè, nel senso, oramai sono 25 anni abbondanti, anche di più, che la democrazia in Italia è stata veramente la democrazia intesa anche come strumento parlamentare di discussione, di elaborazione. Perché è subentrata un po' questa visione americano-centrica a un certo punto, che ha influenzato un po' tutti, compresa la sinistra poi purtroppo, che è quella del i governi devono essere decisionisti. Quando per tradizione in Italia e per tradizione democratica in generale, i governi non devono essere decisionisti, ma devono portare una loro visione all'interno di un contesto che è quello della discussione democratica. Cioè preoccuparsi dell'amministrazione ordinaria di un paese e provare a sviluppare delle teorie, delle leggi e migliorare ovviamente la società secondo quella che è una sorta di visione politica, e può essere anche una visione liberale, non deve essere forse una visione socialdemocratica, cioè, per carità di Dio, non è che deve essere forse in una maniera o in un'altra, però tutto quello che era ovviamente l'elaborazione passava, l'elaborazione e quindi poi anche l'esecuzione dei leggi passava, diciamo, per un processo, per un percorso, e tutti vedevano sta cosa, no, la lentezza, la cosa, e in realtà non è lentezza, è un processo di evoluzione, di sviluppo di cose che devono comunque tenere in considerazione tutti. Invece da Berlusconi in poi si è creata la polarizzazione, o tu sei con me o sei contro di me, o la vedi come la vedo, o sei un brutto comunista, capito? E poi questo era il discorso che in realtà poi alla fine oramai si è veramente radicalizzato, no? E quindi i governi, quando salgono su, prendono la loro posizione amministrativa del paese e anche tra virgolette esecutiva, ma questo ci mettiamo anche il Movimento 5 Stelle, che ha comunque contribuito a questa visione, hanno fatto del tutto per dare questa visione radicale dell'essere dei governanti, ossia di avere questa visione quasi presidenzialistica, no? Noi governiamo, noi facciamo tutto come diciamo noi, ovviamente basandosi anche su una legge elettorale che non è stata mai rimodernata, non è stata mai perfezionata, e che permette ovviamente delle maggioranze bulgare, dove ovviamente questa cosa distrugge, come dicevamo, il processo di discussione. Ma processo di discussione perché comunque, anche se sale al governo un governo di centrosinistra o di centrodestra, che ha comunque la sua visione, i suoi indirizzi, ha gli interessi per portare avanti determinati processi o determinate leggi, la discussione serve per tenere in considerazione anche tutta quell'altra parte che non t'ha votato e che comunque fa parte della società. Quindi se tu sali al governo e fai le leggi solo per far contenti quelli che ti hanno votato, non stai facendo democrazia. Ma questo noi, questo l'abbiamo già capito, non è che c'era una cosa che, oddio, guarda che te sei inventato, che ci stai a dire, sconvolgente e via dicendo. E questo è un problema che dobbiamo veramente tenere in considerazione. Questo decreto sicurezza, che si allinea ad altri paesi che hanno fatto cose piuttosto simili, in realtà non è soltanto una questione appunto legale, legislativa e anche repressiva, che lo è ovviamente e puzza di fascismo in una maniera stratosferica, ma il problema è che, e questo è quello che ha sempre fatto ogni ideologia fascista, porta proprio un senso d'oscurità. Allora, mi ha fatto molto specie vedere i ragazzi che hanno manifestato di fronte al Parlamento spruzzando, avete visto le polveri quelle colorate, no? Quindi sparando praticamente queste polveri colorate, con le quali ovviamente si coloravano tutti, quindi questa immagine molto luminosa, gioiosa e colorata, dall'altra parte l'immagine della repressione, dell'oscurità, del nero, quindi di questa cosa che gli autoritarismi in generale non è che non vogliono semplicemente il dissenso, non vogliono proprio la pluralità dei colori, non vogliono proprio la visione iridescente dell'esistenza, proprio usando dei termini un po' da Santone, che insomma non è che mi sono proprio appropriati, però proprio questa visione di un mondo più colorato e festoso rispetto a un mondo triste e ordinato, cioè il mondo di Orwell, no? Cioè il mondo di 1984, quando io vi feci la domanda, e qualcuno mi aveva anche risposto a una delle vecchie puntate del Grande Reset, se siamo vicini a quel tipo di distopia che abbiamo visto nelle fantascienze e via dicendo, e tutti esagerano, ma in realtà ha esagerato un cazzo, perché poi alla fine vedete che il cammino verso quel tipo di percorso è non solo avviato, ma anche un buono stato di avanzamento, perché la disabitudine della gente all'occuparsi delle questioni politiche, al pensare le cose positive e negative della democrazia, oggi vivono in uno stato di totale indifferenza e soprattutto di menefreghismo culturale, proprio della serie, ma sì, alla fine è giusto, dagli le due zaccagnate a quei stronzi dei ragazzini, capito? Perché è questo un po' quello che alla fine purtroppo ci stiamo costringendo a vivere in questa fase storica veramente, veramente, veramente drammatica. E quindi io invito sempre a tutti quanti, quelle le persone che conosciamo, al di là del fare dibattiti che alla fine oggi non portano a niente, perché la gente non è, appunto, come abbiamo detto, abituata a fare nessun tipo di discussione, invitate la gente invece a partecipare, a accendere, a far vedere questa dicotomia tra l'ordine oscuro e il, diciamo, il caos colorato e divertente, perché poi alla fine, insomma, è anche un po' questo. E lasciateli fare sti ragazzini, ma soprattutto ragazzi, insomma, prendete le persone e buttate dentro le barricate, perché tra poco penso che si comincia, eh. Allora, questi sono i Sigur Rós, che ovviamente non cantano, però io mi sono dato un attimo di tempo per organizzarmi. Allora, vedo che c'è Pietro che ci ha mandato un messaggio, ma adesso cerco di capire un attimo come mandarlo, perché in realtà non ero preparato a questa cosa. Male, male, molto male, bisogna essere sempre, sempre preparati per fare questa cosa. Un secondo solo, eh. Allora, ci dovremmo essere, ragazzi, ci dovremmo essere. Vediamo un secondo, scusate, ma sto a fare un po' di casino, ma purtroppo. Infatti purtroppo, diceva quello lì, non so se voi ricordate, Lorenzo, grande, grande Lorenzo, di quando eravamo pischelli. Vediamo se riesco a far sentire il contributo del nostro amico Pietro. Chiudono YouPorn, ma non c'è problema, basta guardare una qualunque serie di Netflix per vedersi una bella scopata. Ciao da Pietro. Vabbè, qui c'è c'è una polemica un po' becera, devo dire, Pietro, perché insomma è vero, c'è stato un momento, io mi ricordo quando ho visto Sense8 per la prima volta con Marco, serie fighissima, la prima stagione ci era piaciuta tanto, quello delle sorelle Wachowski, là, come si chiamano, e quindi gli ex autori di Matrix, per capirci, insomma, è una serie fica, veramente fica, pensata bene, strutturata anche bene, solo che sono sempre cazzi, fregni, cioè stanno sempre a scovare, fino a che a un certo punto c'è questa scena dell'orgia che è metafisica, poi, in realtà, perché non stanno tutti veramente nello stesso posto, e dove c'è storgione gigantesco tra uomini, donne, donne, uomini, uomini e donne. E io guardi un po', non è perché uno deve, però insomma è un po' c'è un po' di disagio, insomma, alla fine, insomma, tutto sommato. Però devo dire che in realtà a me il sesso nelle serie TV o nei film non mi dà fastidio, se è contestualizzato, se serve comunque poi alla fine a raccontare la storia, la voglio raccontare in questo modo qua. D'altronde è come dici, oh, ma una volta quando eri ragazzino dicevi, ma insomma nelle serie TV o nei film non cagano, non pisciano mai, è la stessa cosa, ogni tanto mangiavano, che poi l'avete fatto caso, a me è una cosa che mi fa incazzare, questo non c'entra niente, ragazzi, una cosa che mi ha fatto sempre incazzare è quando le persone stanno di fronte al cibo, lo smucinano ma non lo mangiano e poi se ne vanno, vaffanculo, il cibo non si spreca, vaffanculo, cioè, ma magna, no, cioè, perché dopo diventa un po' complicata la recitazione, immagino che sia anche per quello, però insomma, dai ragazzi, un po' di realismo, se mi metti di fronte a un piatto di pasta, mo ti fa mangiare, insomma, tutto sommato, no? Non so cosa ne pensate anche di questo. Comunque, volevo sapere, ma l'avete mai conosciuto Giorgio il sindaco di Roma? Ragazzi, questa è una storia che stranamente io non conoscevo, devo dire stranamente, è vero che io nel 2013 non ero già più a Roma, e praticamente, diciamo, un po' mi ero allontanato anche da quella che era diciamo, la politica, ecco, romana, perché mi ero già trasferito a Montelodondo, e però io prima seguivo molto, insomma, soprattutto le questioni alternative, no? Cioè, nel senso, tutta quella parte del background, insomma, diciamo, del sottobosco culturale e politico romano, che mi era sempre molto molto molto piaciuto. Però, ecco, ascoltando praticamente un podcast di internazionale, che vi consiglio di ascoltare, perché soprattutto in real life, che è pieno di storie raccontate, tra l'altro con una redazione che fa una ricerca, cerca le storie, poi si documenta e poi va anche nei posti a cercare di parlare con le persone, far raccontare, e ogni puntata racconta, diciamo, un personaggio e una situazione, un contesto, insomma, nel quale ovviamente è meritevole di essere raccontato. E qui in questo caso stiamo parlando di Joseph Yemane Tewelde. Non so se ve lo ricordate, però se io il nome non me lo ricordavo, mi ricordo il soprannome, che è Yo-Yo, che è questo personaggio nato a Roma, cresciuto a Roma, romano, con una forte influenza romana anche dal punto di vista dialettale, che è cresciuto nelle scuole romane, nella cultura underground romana, e si è occupato tantissimo di immigrazione, ovviamente, di clandestinità e di tutta una serie di problematiche che sono annesse e connesse, e semplicemente lui non era un cittadino italiano. Tanti come lui ovviamente rientravano in un buco normativo, che adesso non vi sto a spiegare perché l'ho letto, ma insomma, poi bisognerebbe approfondire un tema che ci interessa fino a un certo punto. E rientra in un buco normativo dove, pur essendo nato a Roma, sebbene da genitori eritrei, lui non ha potuto essere mai naturalizzato cittadino italiano, perché quando è nato lui praticamente i genitori non avevano una residenza, fondamentalmente, e questa cosa, anche se lui aveva 18 anni per regolarizzarla, non mi ricordo bene per quale buco normativo, alla fine lui non è mai riuscito a regolarizzarla. E mentre comunque il resto della sua famiglia, quindi le sue sorelle, i suoi fratelli, sono stati invece naturalizzati italiani, cioè hanno preso la cittadinanza italiana, hanno fatto il giuramento, lui in realtà alla fine è rimasto fuori da questo meccanismo burocratico che avrebbe dovuto poi reintraprendere da zero, da capo. Però questo gli ha creato anche tanti problemi, momenti di clandestinità dove la fame probabilmente è stata forse uno dei suoi grandi problemi. Il personaggio io veramente lo conosco poco, ma da quello che riesco a capire anche leggendo, è un personaggio dalle mille sfaccettature, è un bel ragazzo, dalle mille sfaccettature e dalla grande qualità anche proprio di preparazione rispetto alle tematiche, anche perché poi le ha vissute proprio direttamente. E la grande particolarità di Yo-Yo o Jojo è che praticamente lui si candidò nelle elezioni che vinse Marino come sindaco di Roma insieme al Partito Pirata. Il Partito Pirata si costituì, diciamo, a Roma in quel periodo lì, e cercava ovviamente un candidato extra, speciale, qualcosa al di fuori del contesto, e quindi presentarono come candidato di Roma lui, che era l'unico che era incandidabile ed ineleggibile, ovviamente. Ciononostante, loro se ne sono fregati di questa cosa e hanno fatto tutta la campagna elettorale, no? Cioè, c'erano i cartelloni Yo-Yo chi? Yo-Yo che? Questo me lo ricordo. Però non gli ho mai dato evidentemente tanto peso allora, perché ribadisco, ero un po' al di fuori, insomma, del contesto romano, però c'erano proprio questi slogan che continuavano: Yo-Yo sindaco di Roma, Yo-Yo sindaco di Roma, perché era proprio la figata era proprio quella di presentare una persona che era ingiustamente al di fuori del sistema, perché per questioni normative, per bug, chiamiamoli così, nella legge ovviamente di cittadinanza, e lui ha utilizzato questo pretesto per fare molta pubblicità, molta propaganda, molta campagna elettorale tra virgolette, proprio per sensibilizzare anche su questi problemi qui e dare comunque spazio e voce appunto a tutto un underground che esiste, e soprattutto a tutti quelli, e ce ne sono veramente tanti, anche se noi fingiamo che non ci siano perché ci piace pensare che non siamo ancora una società multietnica e multiculturale, quando oramai lo siamo di fatto. E quindi Melona, tu puoi fare tutte quante le leggi che ti pare, ma tu non puoi cancellare un dato di fatto semplicemente perché noi abbiamo un razzismo culturale intrinseco dal quale non riusciamo assolutamente a liberarci. E fu figo perché praticamente lui iniziò la sua campagna elettorale ad Ostia arrivando... è stupido però fa ride, arrivando col gommone che è un po' una sorta di slogan per definizione, no? Sei arrivato col gommone, cioè proprio faceva parte proprio del background politico sloganistico, insomma, dell'estrema destra, degli stati e via dicendo, no? E quindi lui arrivò con sto gommone tutto ben vestito, tutto caruccio, con le scarpe da ginnastica, e iniziò praticamente una lunga e simpatica e anche sostenuta campagna elettorale, sostenuta ovviamente da tutta una parte della cittadinanza, quella cittadinanza ai margini, che poi ovviamente non potendolo votare, comunque molti hanno votato Marino, no? Marino, Ignazio Marino, che è stato secondo me l'ultimo sindaco di Roma. Hanno fatto del tutto per distruggerlo, proprio perché secondo me è stato un sindaco serio, con delle idee, e che voleva rompere un sistema, e quindi anche il suo stesso partito ovviamente lo ha mandato a fanculo. E questo ci racconta tantissimo della politica italiana, di questo livello della politica italiana, perché probabilmente 20 anni fa, 30 anni, no, 40 anni fa forse questa cosa non sarebbe stata tanto per la quale, perché ci sarebbero stati comunque altri partiti che lo avrebbero comunque sostenuto e lo avrebbero anche inglobato da un certo punto di vista, magari come indipendente, ad esempio i radicali. Noi abbiamo sempre considerato i radicali come un movimento quasi di sinistra, ma in realtà i radicali sono un movimento liberale, tendenzialmente più di centrodestra, ma erano liberali radicali, appunto. Quindi diciamo loro lottavano per i diritti in maniera radicale, e questo li faceva spesso assomigliare a certe lotte anche della sinistra storica italiana, no? Con la quale ovviamente hanno condiviso tantissime battaglie, compreso l'aborto, il divorzio e tutta una serie di cose che oggi fanno parte, diciamo, del nostro background, delle nostre leggi, insomma, diciamo così. E quindi Giorgio si è candidato e ha fatto, appunto, ha creato un po' questo movimento, diciamo, di opinione per sensibilizzare sempre di più le problematiche che possono essere quelle delle borgate, delle situazioni più al margine, no? Gli emarginati, quelli lasciati fuori, che poi vengono spesso citati dai politici, ma sempre in maniera così molto superficiale, molto basica. Poi recentemente, mi pare nel 2024, è morto Giorgio. Non sappiamo perché, c'aveva una figlia, non sono riuscito a recepire informazioni, ma ho letto degli articoli molto belli, molto toccanti, su questo personaggio che comunque era entrato, diciamo, nel cuore di una parte appunto della cittadinanza romana, identificandolo come un ragazzo di Roma. Così come si identificava anche lui si identificava un romano d'Africa, cioè fondamentalmente. E questa è anche una cosa bella, perché se voi considerate che crescere in un territorio che è lontano dal tuo, un mix tra due culture, però sentire l'appartenenza, la radice al posto in cui sei nato e che comunque ti ha dato tanto da un certo punto di vista, ci deve far capire quanto in realtà queste cose arricchiscono il contesto culturale. E invece no, noi lo vediamo sempre in una maniera così becero e razzista che non ci rendiamo neanche conto di quello che stiamo facendo. Questa è una cosa bruttissima, ragazzi, veramente becera. E comunque in questi articoli molto belli, che raccontano un po' anche come, che persona era, quanto era sempre disponibile al dialogo, quanto comunque sosteneva appunto tutte quante le cause, c'è una frase che mi è piaciuta in un articolo che chiudeva dicendo che salutava Giorgio, che rimarrà il sindaco di Roma per sempre. I Cure, che vengono a trovarci qui su Runtime Radio, la web radio geek, e in particolare su Il Grande Reset con Simone Pizzi, tutti i venerdì mattina alle ore 7. Si ritorna, ragazzi, presto ripristineremo definitivamente il server, quindi attenzione, ci danno enormi enormi cambiamenti. Per ora è tutto, questa mattina ho utilizzato la mia jingle machine programmata in Python e ho già trovato delle cose da migliorare, perché come avete visto sono dei piccoli cosine, e poi devo comunque sempre essere pronto per ricevere i messaggi in Bluetooth, e anche quando il settaggio del Bluetooth è al di fuori, no, dei canali fisici, ci sono i canali virtuali e devo imparare ad utilizzarli meglio, con più sveltezza. Soltanto che c'è una piccola problema, che il mixer non è proprio sotto il mio grugno, e siccome che sono un po' ciecato, e allora diventa un po' complicato, ma non ce ne frega un cazzo, noi troveremo soluzione a tutto, perché siamo qui per fare la radio, quella bella, quella che sia piacevole, divertente, istruttiva, che sia di incoraggiamento alla rivoluzione, e che porca puttana non passeranno. È vero che ciclicamente purtroppo la storia ci insegna che l'oscurità deve assolutamente tornare, è vero che Ugo Foscolo, che non è esattamente un rivoluzionario, diceva sempre di insozzare con l'obbrobrio e la bruttura quello che già loro rendono brutto. Grande Ugo Foscolo, un romantico, ma io ero un illuminista e quindi fanculo i romantici. Però diciamo che dobbiamo metterci del nostro meglio per aiutare questo mondo a passare questo momento difficile, brutto, oscuro, che ora c'è e probabilmente si stanzierà anche, ma un giorno va sicuro, me la sento, sono sicuro che sia così, un giorno passerà. Simone Pizzi, il pensiero si accende, il grande reset, la sfida che attende. Microfono aperto, un confronto che crea, verso un domani nuovo plasmato da un'idea. Uniamo le forze, è tempo di cambiare, per costruire un mondo nuovo da immaginare. Di Runtime, la voce che ci guida, Simone Pizzi accende la nuova sfida. Non solo parole, ma un seme di coscienza, per un risveglio, una nuova attenza. Uniamo le forze, è tempo di cambiare, per costruire un mondo nuovo da immaginare. Questo è Il Grande Reset con Simone Pizzi, solo su Runtime.